Sì, claro, io tomo l'iniziativa. Sì. Bien, che passa? È pericolo spargersi! Oh, vaffanculo spaghetti! Mi tocca di Jean-Louis! La pancetta, poussée au martini, épongée par la...